Il libro di Ruth. Nei giorni in cui governavano i giudici, ci fu una carestia nella terra di Israele e un uomo da Betlemme di Giuda se ne andò ad abitare nei campi di Moab, insieme con la moglie e due suoi figli. Il nome dell'uomo era Elimelech e il nome della moglie Noemi. Quello dei suoi due figli, Maclon e Chilion, e fratei da Betlemme di Giuda. Essi se ne andarono nei campi di Moab e vi si stabilirono. Morì poi Elimelech, marito di Noemi, ed ella restò con i suoi due figli. Essi presero mogli moabite, di cui una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Dimorarono là circa 10 anni, e poi morirono anche Maclon e Chilion, e la donna rimase priva del marito e dei suoi due figli. Allora ella partì insieme alle nuore per tornare dai campi di Moab, perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. Noemi si allontanò dal luogo in cui aveva dimorato, e le due nuore erano con lei, e si misero in viaggio per tornare nella terra di Giuda. Ma Noemi disse alle due nuore: «Orsù, tornate ciascuna nella casa della vostra madre, e sia benigno il Signore con voi, come voi lo siete state con i nostri morti e con me. Vi conceda il Signore di trovare pace, ognuna nella casa del proprio marito». Essa le baciò, ma esse piangendo ad alta voce le dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». Noemi disse: «Tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora figli nel mio seno che possano essere vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate, perché sono troppo vecchia per risposarmi. Infatti, anche se dicessi che ho ancora speranza, anche se questa notte stessi con un uomo e avessi dei figli, forse voi potreste aspettare ancora fino a che crescessero. Potreste restare continenti senza marito. No, figlie mie, troppo amara è per voi la mia sorte. Infatti la mano del Signore si è tesa contro di me». Esse piansero ancora ad alta voce. Poi Orpa baciò la suocera e tornò al suo popolo, mentre Ruth non si staccò da lei. Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Va anche tu dietro a tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non forzarmi a lasciarti e ad allontanarmi da te, perché dove tu andrai, andrò anch'io, e dove tu dimorerai, anch'io dimorerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove tu morirai, morrò anch'io, e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo e altro ancora, se altra cosa che la morte separerà te da me e me da te». Noemi capì che Ruth era risoluta a seguirla e cessò di insistere. Partirono insieme fino a che vennero a Betlemme. Or quando arrivarono a Betlemme, tutta la città si commosse a causa loro, e le donne dissero: «Questa è Noemi». Essa rispose loro: «Non chiamatemi Noemi, chiamatemi Amarezza, perché l'Onnipotente mi ha inflitto grande amarezza. Io me ne sono andata colma di beni, e vuota mi ha fatto tornare il Signore. Perché mi chiamate Noemi, quando il Signore è stato testimone contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?» Così tornò Noemi con Ruth, la moabita, sua nuora, reduce dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme al principio del raccolto dell'orzo. Noemi aveva un parente di suo marito, uomo eminente della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth la Moabita disse a Noemi: «Lascia che vada a spigolare nei campi, seguendo coloro presso cui troverò grazia ai loro occhi». Noemi le rispose: «Va, figlia mia». Essa andò ed entrò in un campo per spigolare dietro ai mietitori, e le capitò per caso di trovarsi nel campo che apparteneva a Boaz della famiglia di Elimelech. Ecco che Boaz venne da Betlemme e disse ai mietitori: «Il Signore sia con voi». Essi risposero: «Ti benedica il Signore». Boaz disse al servo preposto ai mietitori: «Di chi è quella ragazza?» Il servo preposto ai mietitori rispose: «È una ragazza moabita che è tornata con Noemi dai campi di Moab. Ella ha detto: lasciami spigolare e raccogliere fra il grano, andando dietro ai mietitori. È venuta ed è restata dal mattino fino ad ora, senza accordarsi nemmeno un piccolo riposo». Boaz disse a Ruth: «Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in altri campi. Non allontanarti da qui, e così starai insieme alle mie serve. Tieni d'occhio il campo che si miete e va dietro ai mietitori. Non ho forse dato ordine ai servi di non infastidirti? Se hai sete, va dove sono i vasi e bevi l'acqua attinta dai servi». Ruth si prostrò e, chinata a terra, gli disse: «Come posso aver trovato grazia ai tuoi occhi, al punto che tu mi prenda in considerazione, quando io sono una straniera?» Boaz rispose: «Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto a tua suocera dopo la morte di tuo marito, come hai lasciato tuo padre e tua madre e la tua terra nativa, e sei venuta presso un popolo che non avevi mai conosciuto. Ripaghi il Signore l'opera tua, e sia piena la tua ricompensa da parte del Signore, Dio d'Israele, sotto la cui protezione sei venuta a rifugiarti». Ella disse: «Possa io trovare grazia ai tuoi occhi, mio Signore, poiché mi hai rassicurato e hai parlato al cuore della tua serva, mentre io non pretendo nemmeno di essere come una delle tue serve». Al momento del pasto, Boaz le disse: «Avvicinati qui e mangia il pane, intingendo il tuo boccone nell'aceto». Essa sedette accanto ai mietitori ed egli le offrì spighe arrostite. Ruth mangiò a sazietà e ne mise da parte. Si alzò poi per spigolare e Boaz dette quest'ordine ai suoi servi: «Lasciatela spigolare anche in mezzo ai covoni e non mortificatela. Anzi, lasciate cadere per essa delle spighe dai manipoli e abbandonatele, affinché essa possa raccoglierle senza che voi la rimproveriate». Ruth spigolò nel campo fino a sera, poi batté quello che aveva spigolato e ne venne fuori quasi un'efa di orzo. Lo prese e andò in città e mostrò alla suocera quello che aveva spigolato. Tirò poi fuori quello che le era avanzato dopo essersi saziata e glielo dette. La suocera le domandò: «Dove hai spigolato oggi e dove hai lavorato? Sia benedetto chi ti ha preso in considerazione». Ruth raccontò alla suocera presso chi aveva lavorato e disse: «Il nome dell'uomo presso il quale ho lavorato oggi è Boaz». Noemi disse alla nuora: «Benedetto sia egli dal Signore, che non ritira la sua carità né ai morti né ai vivi». Poi soggiunse: «È un nostro parente, è uno dei nostri riscattatori». Ruth la Moabita disse ancora: «Mi ha anche detto: sta insieme ai miei servi fino a che sia finita tutta la mia mietitura». Noemi disse a Ruth sua nuora: «Ebbene, figlia mia, che tu esca con le sue serve, in modo che non ti importunino in un altro campo». Ruth infatti si unì con le serve di Boaz per spigolare fino alla fine del raccolto dell'orzo e del raccolto del grano, e poi restò presso la suocera. Thank you. Noemi, sua suocera, disse a Ruth: «Figlia mia, non devo io forse cercarti una sistemazione nella quale tu possa trovarti bene? Orbene, Boaz, con le serve del quale sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, egli vaglia l'orzo nell'aia questa sera. Tu lavati, ungiti, mettiti il mantello e scendi nell'aia. Non farti vedere da lui fino a che non abbia finito di mangiare e di bere. E quando si sarà coricato, osserva in quale luogo egli si sia coricato. Poi va e scoprilo dai piedi e coricati tu stessa. Egli poi ti dirà quello che devi fare». Ruth le disse: «Farò tutto quello che mi hai detto». Scese infatti Ruth nell'aia e fece tutto come le aveva ordinato la suocera. Boaz mangiò e bevve, e il suo cuore si rallegrò, e andò a coricarsi al limite del mucchio di orzo. Ella venne piano piano, raggiunse il posto dei suoi piedi e si coricò. Avvenne che a mezzanotte l'uomo si riscosse e guardò in giro, ed ecco, una donna giaceva ai suoi piedi. Allora egli disse: «Chi sei?» Ella rispose: «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu sei il mio riscattatore». Egli disse: «Benedetta sia tu dal Signore, figlia mia. Il tuo secondo atto di pietà è migliore del primo, perché non sei andata dietro ai giovani, poveri o ricchi che fossero. Ora, figlia mia, non temere. Tutto quello che dici io te lo farò, perché tutti nel mio popolo sanno che tu sei una donna virtuosa. Ora sì, veramente, io sono il riscattatore. Ma c'è un altro riscattatore più vicino di me. Resta qui questa notte e domani mattina, se egli vorrà riscattarti, bene, ti riscatti. Ma se non vorrà riscattarti, ti riscatterò io per la vita del Signore. Resta coricata fino al mattino». Ella restò coricata ai suoi piedi fino al mattino. Poi si alzò prima che si potesse distinguere una persona dall'altra, ed egli le disse: «Che non si sappia che una donna è venuta nell'aia». Poi aggiunse: «Stendi il mantello che è indosso e afferralo bene». Ella lo afferrò. Egli vi versò 6 misure di orzo e gliele mise addosso. Ruth rientrò in città, andò dalla suocera e questa le domandò: «Come va, figlia mia?» Ella le raccontò tutto quello che l'uomo le aveva fatto e disse: «Mi ha dato 6 misure di orzo e ha detto: non tornare a mani vuote da tua suocera». Noemi disse: «Resta qui, figlia mia, fino a che tu sappia come andrà a finire la cosa, perché l'uomo non sarà tranquillo fino a che la cosa non sia sistemata». Boaz era salito alla porta della città e si era seduto lì, quando ecco passare il riscattatore di cui aveva parlato Boaz. Egli gli disse: «O tu, tal dei tali, avvicinati e siediti qui». Quello si avvicinò e si sedette. Boaz prese allora 10 uomini fra gli anziani della città e disse: «Sedetevi qui». Essi si sedettero. Boaz disse allora al riscattatore: «Quella parte di campo che apparteneva a nostro fratello Elimelech, Noemi, che è tornata dai campi di Moab, lo vende. Io ho pensato di informarti e dirti: compralo alla presenza di coloro che siedono alla porta e degli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo. Se non vuoi, dimmelo, affinché io lo sappia. Perché non c'è nessuno al di fuori di te che abbia diritto al riscatto, e io vengo dopo di te». Il riscattatore disse: «Io lo riscatterò». Boaz aggiunse: quando avrai comprato il campo da Noemi, tu acquisterai come sposa anche Ruth, la Moabita, moglie del morto, per far sussistere il nome del morto sulla sua eredità. Il riscattatore rispose: allora non posso usare del diritto di riscatto per timore di danneggiare la mia eredità. Riscatta tu quello che avrei potuto riscattare io, dato che io non posso riscattarlo. Ecco qual era un tempo il costume in Israele a proposito del riscatto e della permuta per rendere valido qualsiasi affare. Ci si toglieva il sandalo e lo si dava all'interessato. Questo era il modo di testimoniare in Israele. Il riscattatore disse a Boaz: prendilo tu. Si tolse il sandalo e lo dette a Boaz. Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete testimoni oggi che ho acquistato dalle mani di Noemi il diritto su tutto ciò che apparteneva a Elimelech e su tutto quello che apparteneva a Chilion e a Maclon. Inoltre mi sono acquistato per moglie Ruth la Moabita, moglie di Maclon, per far sussistere il nome del morto nella sua eredità e perché non venga meno il nome del morto in mezzo ai suoi fratelli e alla porta della sua città. Mi siete voi testimoni oggi? Tutto il popolo che si trovava alla porta e gli anziani dissero: siamo testimoni. Conceda il Signore alla donna che viene nella tua casa di essere come Rachele e come Lia, che hanno edificato la casa di Israele. Abbia fortuna in Efrata ed abbia tu un nome in Betlemme. Sia la tua casa come la casa di Perez, che Tamar generò a Giuda, in grazia della posterità che il Signore ti darà da questa giovane. Boaz prese Ruth in moglie e si avvicinò a lei. Il Signore le concesse di concepire e dette alla luce un figlio. Le donne dissero a Noemi: benedetto il Signore che non ti ha lasciato mancare di un riscattatore oggi. Il suo nome sarà proclamato in Israele. Egli ti sarà di consolazione e di sostegno nella vecchiaia, perché lo ha partorito la tua nuora che ti ama, ella che verso di te è più buona di 7 figli. Noemi prese il bambino e se lo pose in seno, e fu per lui l'educatrice. Le vicine dicevano: è nato un figlio a Noemi, e proclamavano il suo nome, Obed. Egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. Ecco la genealogia di Perez. Perez generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Aminadab, Aminadab generò Naxon, Naxon generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide. Thank you.